Benvenuti alla nostra quarta, mi pare, lezione di jazz di questa stagione che sarà un po' più corta, come sapete, quest'anno. Chi frequenta le lezioni di jazz sa che periodicamente alcune di queste lezioni sono dedicate al viaggio nel capolavoro, e cioè affrontiamo non un genere, un musicista, una carriera, ma un singolo brano o un singolo disco e proviamo a spremerlo fino in fondo, proviamo a viaggiare nelle pieghe più intime del brano. Oggi comincia anche una specie di operazione di attacco alle lezioni di jazz, di classica, perché sto cercando di rosicchiare il pubblico di là per portarlo di qua, e quindi abbiamo deciso di dedicare una lezione al rapporto fra jazz e classica, magari ne faremo anche altre in seguito, in particolare a Bach, al rapporto fra Bach e il jazz, attraverso un grande capolavoro, che è un brano molto breve peraltro, che dura poco più di 3 minuti, che tra breve ascolteremo, che si chiama Concord del Modern Jazz Quartet. Ora, prima di ascoltare il brano, diciamo 2 parole su questo gruppo molto particolare, il Modern Jazz Quartet. Il Modern Jazz Quartet era un quartetto che si è ufficialmente costituito nel 1952, ma ha una storia un po' curiosa. Nasce come costola dell'orchestra di Dizzy Gillespie alla fine degli anni 40. L'orchestra di Dizzy Gillespie aveva un organico nella sezione ritmica un po' particolare. C'erano il pianoforte, il contrabbasso e la batteria, che erano John Lewis, Ray Brown e Kenny Clark, ma in più aveva il vibrafono Milton Jackson. Vorrei ricordarvi che il vibrafono, ancora fino ai primi anni 30, era considerato uno strumento giocattolo, una bizzarria, una curiosità che veniva usata come colore in pezzi magari più eccentrici e giocosi. Invece Lionel Hampton, a partire dalla metà degli anni 30, che fu scoperto da Louis Armstrong, Lionel Hampton ha trasformato questo strumento in uno strumento vero, con un suo linguaggio, un suo stile, proprio all'interno del jazz. Questo per sottolineare come tra l'altro gli afroamericani abbiano portato, come dire, in primo piano e abbiano dato identità a strumenti che erano, come dire, quasi senza storia. Questo vale naturalmente anche per strumenti molto più blasonati come oggi nel jazz, come il sassofono. Per molto tempo Lionel Hampton è rimasto l'unico grande vibrafonista del jazz, finché con l'affermarsi del bebop non si è affermato anche Milton Jackson, che vedete a destra in questa foto, che ha rinnovato l'approccio allo strumento ed è rimasto, come dire, il più grande vibrafonista sulla scena internazionale fino all'arrivo altrettanto innovatore di Gary Barton alla fine degli anni 60. Questo per dire che la sezione ritmica dell'orchestra di Gillespie aveva un suono anomalo: pianoforte, contrabbasso, batteria e vibrafono. Questa sezione ritmica cominciò a provare in maniera autonoma, come spesso fanno le big band, si lavora a volte per sezioni separate, e a un certo punto John Lewis, il pianista, decise che forse era il caso di mettere su un gruppo, cioè di staccare la sezione ritmica e creare un gruppo. Questo gruppo cominciò a lavorare, era un gruppo cooperativo, a un certo punto all'inizio si chiamava Milton Jackson Quartet, aveva proprio il nome del vibrafonista, poi cambiò nome e diventò Modern Jazz Quartet. Intorno alla prima metà degli anni 50, tra il 53 e il 54, il batterista Kenny Clark abbandona il gruppo per essere sostituito da Connie Kay, che rimarrà il batterista stabile. Diciamo, Connie Kay in realtà si chiamava Connie Krasner, ma durante una trasmissione radiofonica il conduttore non si ricordava il cognome e disse Kay, K. Quindi gli è rimasto questo nomignolo, Connie K, senza il cognome intero. Quello che rende speciale questo gruppo è il suono, perché era un gruppo che aveva un suono fuori dall'ordinario, un quartetto in cui non c'era uno strumento a fiato, non era un trio piano, basso e batteria, il vibrafono, che era considerato uno strumento secondario, tutto sommato, a meno che non fosse suonato da Lionel Hampton, non aveva ancora una piena dignità solistica, tantomeno nel bop, perché era Milton Jackson che si stava, come dire, stava facendo strada in questo campo, E non solo, ma metteva insieme due strumenti che tutto sommato sembrano avere una natura analoga, il vibrafono e il pianoforte, tutte e due con, come dire, i tasti ordinati nello stesso modo, con sonorità diverse. Certo, il vibrafono si suona con due bacchette, poi Gary Barton ne introdurrà quattro, ma con due bacchette non fai gli accordi come il pianoforte. Però è anche vero che sei in un registro che è molto simile a quello del pianoforte, almeno dalla parte centrale del pianoforte, quindi c'è il rischio di collisioni, sovrapposizioni, confusione timbrica. E invece i musicisti del Modern Jazz Quartet fecero di questo assetto così unico, così originale, che non aveva precedenti nella storia, un elemento distintivo. Poi c'è il nome del gruppo, il Quartetto di Jazz Moderno. Notate che non c'è il nome dei musicisti, c'è la parola jazz, ma c'è questo aggettivo modern, che è una dichiarazione di poetica. Una dichiarazione di poetica perché, come dire, noi facciamo musica contemporanea. Ecco, modern va inteso in questo senso. Facciamo la musica d'oggi e ci poniamo, come dire, su una frontiera più avanzata della produzione musicale. Questa frontiera più avanzata, già dichiarata come dichiarazione di poetica nel nome del gruppo, ha vari aspetti, degli aspetti, come dire, formali, visivi, di comportamento, e degli aspetti sostanziali. Tra gli aspetti formali e visivi c'è l'abbigliamento. Questi signori, con grande scandalo del mondo del jazz, si vestono come se fossero dei musicisti classici. Ma il jazzista è notoriamente uno che lotta con lo strumento, suda, si agita, ha un quasi rapporto sessuale con lo strumento e soprattutto quando suona ha una corporeità, come dire, esplicita, a volte perfino istintiva, che mal si accorda con la formalità invece gestuale, comportamentale di un musicista classico. Ma nella loro prospettiva modern, appunto del nome del gruppo, l'abbigliamento classico era un modo per dire: qui facciamo sul serio, qui stiamo cercando di mescolare culture diverse e ci rivolgiamo a pubblici diversi, non solo al pubblico del jazz, ma anche al pubblico della tradizione classica europea. Questa cosa, che tra l'altro, ripeto, sembra incredibile oggi, ma in cui oggi è un po' il contrario, cioè il musicista jazz deve fare il fighetto vestito per bene, se si presenta in bermuda sul palco viene visto come un cafone. Uno, tra l'altro, parentesi, uno dei grandi avversari del Modern Jazz Quartet e di questo modo di vestirsi fu Miles Davis, che disse: non si sale su un ring con lo smoking, perché per lui fare musica era come salire su un ring. Ma oltre a questo aspetto, dicevo, c'è un aspetto sostanziale, e cioè che questi musicisti, tutti di estrazione bebop, anche se il pianista John Lewis, che poi diventerà di fatto il leader del gruppo, aveva dietro una preparazione anche classica, veramente molto ampia, era laureato in antropologia, John Lewis, e aveva studiato la Manhattan School of Music, che tra l'altro alla fine degli anni 40 suggerirà lui stesso ai dirigenti della Manhattan di introdurre un corso di jazz, che è stato uno dei primi corsi di jazz che siano mai entrati in una scuola di musica statunitense, che oggi è uno dei più prestigiosi di tutti gli Stati Uniti. Con questa, come dire, bagaglio molto ampio, si avviano a questi musicisti a mescolare i generi. Sono fantastici esecutori di blues, sono straordinari improvvisatori bebop, ma hanno, come dire, una prospettiva, soprattutto il leader John Lewis, che vedete al pianoforte, una prospettiva più ampia. Provano a sfondare i confini del jazz e a muoversi invece in un territorio più ibrido, più meticcio. Considerate che, adesso non è qui il caso di approfondire il rapporto fra jazz e classica, ma considerate che il rapporto, o meglio, l'interesse reciproco fra i musicisti classici e i jazzisti statunitensi, e non solo statunitensi, negli anni 40 e 50 c'era già, solo che era un interesse che stava dietro le quinte, era un interesse fatto di rapporti privati, di persone che vanno a casa del tale compositore, di discussioni reciproche, di scambi, ma non si era ancora concretizzato in una programma, diciamo così, addirittura poetico ed estetico concreto. Il Modern Jazz Quartet, fin dal, appunto dal nome, fa esattamente questa cosa. E volevo aggiungere nel background dei musicisti anche la curiosa posizione di Connie Kay, a cui dedicheremo una momento di attenzione prima della conclusione della lezione, perché Connie Kay, che è poi passato alla storia come il batterista più raffinato, un percussionista più che un batterista, raffinatissimo, capace di spargere colori molto, molto sottili, in realtà veniva dal rhythm and blues, cioè era uno che aveva macinato dei groove molto energici per anni negli studi dell'Atlantic, suonando sotto i dischi di Big Joe Turner e di altri musicisti di blues. L'ultima considerazione che voglio fare prima di passare all'ascolto di Concord è che questo tipo di assetto sonoro contraddiceva un'altra questione del jazz che stava emergendo nel jazz di quegli anni, siamo appunto a cavallo fra la prima e la seconda metà degli anni 50, e cioè il jazz si stava riaffermando sulla scena internazionale come una musica molto energica, il cosiddetto hard bop. Se non ricordo male abbiamo dedicato una lezione all'hard bop, allora interrogo, no scherzo, abbiamo dedicato una lezione all'hard bop e abbiamo visto come si affermasse questa energia nuova, un po' semplificata ma molto aggressiva nella sonorità del jazz della metà degli anni 50. Il Modern Jazz Quartet va nella direzione opposta, va nella direzione di una sonorità sommessa, trattenuta da camera, cameristica nel senso classico europeo, proprio perché per esempio non ci sono strumenti a fiato, perché il vibrafono comunque ha una proiezione sonora relativa e non è spinto da altri strumenti a fiato che lo possono aiutare ad arrivare in primo piano, è tutto in una dimensione molto, molto raccolta. Il brano che andiamo ad ascoltare adesso viene dal disco omonimo, Concord, che uscì nel 1955, fu registrato ad Hackensack nel New Jersey, dove c'era lo studio di Rudy Van Gelder, di cui si serviva la Prestige. La copertina ci suggerisce un riferimento per questo titolo del disco e del brano a Place de la Concorde di Parigi, ci torneremo, e entro la fine dell'anno il disco uscì. Questo disco conteneva un brano, che è quello che dà il titolo all'album, che ascoltato, anche così come faremo adesso, una prima volta, senza troppe difficoltà, suona come un pezzo bachiano, come una fuga per la precisione. Se uno ha un minimo di familiarità con la musica barocca, in particolare con Bach, si rende conto che questo non è un pezzo jazz nel senso tradizionale, ma c'è qualcosa che non torna, e questo qualcosa che non torna è il riferimento ad una forma musicale, più un processo che una forma musicale barocca, che richiama moltissimo, moltissimo Bach, anche se poi, come sentiremo fra pochi secondi, ha un andamento, come dire, squisitamente bop nel suo ritmo e nel fraseggio. Questa è Concord, l'ascoltiamo una prima volta così per sentire come fa. Thank you. Questo è il pezzo, chiaramente suona un po', diciamo, barocco e bachiano, ma prima di entrare nelle pieghe del pezzo, diciamo qualcosa su John Lewis e Johann Sebastian Bach, e poi ascoltiamo i due esempi che ho messo qui sotto. Lewis, che vi ho detto aveva una formazione da antropologo e da pianista classico, sempre stato profondamente innamorato della cultura europea, di quella italiana, di quella francese, di quella tedesca. Conosceva molto bene, per esempio, il Rinascimento e il Barocco italiano, conosceva molto bene il Rinascimento francese, conosceva molto bene la tradizione classica. Questo interesse per Johann Sebastian Bach in particolare è dichiarato in un altro brano dello stesso disco. Perché in un altro brano dello stesso disco lui fa un arrangiamento di Softly as in a Morning Sunrise, che è una canzone di quegli anni, sostanzialmente dei primi anni 50, che viene arrangiata in questo modo. Per capirlo, prima ci ascoltiamo il canone A2 sul tema Regio dall'Offerta musicale di Bach. Questa esecuzione diretta da Enrico Gatti, il canone è eseguito solamente 3 volte, ci sono il violino e il clavicembalo che fanno il canone è come Framartino Campanaro, no? Cioè uno fa una melodia e l'altro segue facendo la stessa melodia sfalsata, più un basso che accompagna, quindi noi sentiamo 3 linee, 3 voci, ma ce n'è una che accompagna e 2 che si inseguono. Questa cosa si può eseguire sostanzialmente all'infinito. Nell'arrangiamento di Softly as in a Morning Sunrise, John Lewis introduce il tema del pezzo con il canone dall'offerta musicale arrangiato per il Modern Jazz Quartet. Eccetera. Perché c'è questo? Intanto la trascrizione di Lewis è fedelissima perché le voci sono 3: il vibrafono, il pianoforte che fanno il canone, e il basso, il contrabbasso che fa la parte dell'accompagnamento della viola da gamba in quel caso. Perché utilizza proprio questo pezzo all'inizio di Softly as in a Morning Sunrise? Perché l'intervallo iniziale della canzone. Pai da, da, re, ro, re, ro, di, da. Lo so che alcuni vengono la domenica per sentirmi cantare, quindi li accontento. È lo stesso, cioè non è lo stesso, è molto simile all'attacco del canone dell'offerta musicale. Pem pam, tin tam, che è una quinta che scende, tin tam, questa è pa da, è una terza che scende, ma sostanzialmente c'è questo salto discendente che fa da appiglio per mettere insieme le due cose. È come dire, un inchino, un omaggio che John Lewis fa a Johann Sebastian Bach per poi suonare insieme al Modern Jazz Quartet questo standard. Bach, Lewis ha scritto diverse fughe nel corso della sua carriera per il Modern Jazz Quartet, alcune di una complessità veramente pazzesche, come per esempio Three Windows nel disco No Sun in Venice, che addirittura una fuga tripla era candidata per la lezione di oggi. Poi ho avuto pietà del mio pubblico e ho detto: no, non possiamo così, arrivare di colpo ad una fuga tripla. Andiamoci gradualmente, magari l'affronteremo in una prossima lezione. Ma è un capolavoro assoluto, un pezzo di un'enorme complessità e di straordinaria bellezza. Three Windows. C'è poi Vendôme, che è un'altra fuga dedicata ad un'altra piazza di Parigi, Place Vendôme, Fugue for Music Inn, insomma ce ne sono diverse, ma forse l'omaggio più sistematico che John Lewis abbia fatto a Bach si trova in un disco dimenticato, ma bellissimo, che dovete correre ad acquistare appena usciti da qui, io vi corro dietro per controllare, che si chiama Blues on Bach 1973, prima ne parlavo con un amico, è un disco fantastico perché qui c'è una, come dire, una piccola guida all'ascolto che vi offro come bonus gratuito senza farvi venire un'altra lezione, perché in questo disco sostanzialmente, come vedete dalla prima colonna, John Lewis alterna un pezzo di Bach e un pezzo suo, un pezzo di Bach e un pezzo suo, ok? I pezzi suoi, come vedete dalle righe 2, 4, 6, 8, sono tutti blues, in quattro tonalità diverse. Si bemolle, La minore, dunque vediamo un po' se... Ecco, guardate, ecco, Si bemolle, La minore, Do minore, Si, ok? Queste lettere in tedesco, B, A, C, H, vogliono dire appunto Si bemolle, La, Do e Si. Tra l'altro notate che i blues esterni sono in tonalità maggiore, i blues interni sono in tonalità minore e si alternano, questi sono titoli inglesi, con pezzi di Bach. Ma le quattro tonalità del blues formano il nome Bach. Do, cioè Si bemolle, La, Do e Si maggiore, con la B e la H, il Si bemolle e il Si in maggiore, e il La e il Do in minore. Tutto questo sarebbe, come dire, molto intrigante se non fosse che la musica è bellissima. Cioè, al di là, diciamo, dell'omaggio a Bach, la musica è bellissima. Va anche ricordato che in questo omaggio a Bach, che l'alternanza delle note Si bemolle, La, Do, Si... è una successione di quattro note che appunto si traducono nel sistema tedesco di notazione B, A, C, H, è una successione melodica che lo stesso Bach utilizza diverse volte nelle sue composizioni come una sorta di firma autobiografica all'interno della sua musica, ed è una successione melodica che poi è stata utilizzata nei secoli successivi molte volte, addirittura fino a Luciano Berio. Questo tanto per dirvi quanto sia profondo l'amore di John Lewis per le fughe di Bach. Ora però, per capire che razza di operazione ha fatto John Lewis nello scrivere Concorde, e cioè nello scrivere una fuga jazz, che è qualcosa di che è una novità quasi assoluta, ma poi vi dico in realtà qualche altra cosa, dobbiamo capire come funziona una fuga. Ora, qui in sala vedo anche degli amici musicologi che possono farsi una piccola pennichella nei prossimi tre minuti. Ho deciso di spiegarvi come funziona una fuga nel modo più diretto e semplice possibile. Ho preso da YouTube il lavoro che ha fatto un volenteroso che fa scorrere una partitura di Bach indicando quali sono le parti di questa fuga. Però vi anticipo rapidamente di cosa si tratta. Anzitutto tenete presente una cosa importantissima. La fuga non è una forma con una struttura prefissata. È fatta di alcune, come dire, di alcune idee, di alcuni punti fermi, il cui ordine solo fino a un certo punto è, come dire, obbligato. La fuga è più un flusso musicale che segue determinate regole, ma non ha, come per esempio la forma sonata o la forma canzone, non ha una struttura fissa che trovate uguale in tutte le fughe. Ogni fuga è una storia a sé. Quindi qui ne vedremo, adesso vi farò vedere due, una fuga completa e un frammento di un'altra fuga per provare a abbracciare le diverse tipologie di tecniche che vengono usate. Allora, una cosa sicura che c'è in tutte le fughe è l'esposizione, cioè il fatto che all'inizio viene presentato il tema. Questo tema in realtà viene chiamato soggetto, sapete perché? Perché, detto un po' brutalmente, il tema è una cosa che ha un inizio e una fine ben definita. Il soggetto invece è una melodia talmente fluida e continua che a un certo punto si trasforma in qualcos'altro senza che ve ne accorgiate. Non c'ha dei confini definiti, soprattutto nella parte finale. Non puoi dire esattamente qui finisce il tema, qui comincia un'altra cosa. È fatta apposta come una specie di flusso, che è un tratto caratteristico della musica barocca, del contrappunto in particolare. Come vedrete tra breve, questo è il soggetto, per esempio, di questa fuga dal clavicembalo ben temperato. Ok? Poi entra una seconda voce che fa la stessa cosa, sfalsata. Ok? La risposta, cioè la seconda voce che entra, questa si chiama soggetto, questa si chiama risposta. Questo è tutto quello che dovete imparare per ora. Questo è il soggetto, questa è la risposta. La cosa interessante è che la risposta avviene in un'altra tonalità. Questo è importante anche per capire il pezzo di Lewis, cioè... Scusate. Questa è la tonalità del soggetto, ok? Ma quando entra la risposta, cioè qui, la tonalità cambia. Sentito? La prima era. E questa è. Sì. C'è un gioco continuo. Ogni volta che sentite il soggetto e la risposta, la tonalità cambia e si sposta, appunto. Ora, quando la seconda voce suona la, canta la risposta, suona la risposta, la prima voce che fa? Fa una continuazione del soggetto che si chiama controsoggetto. Questa. Quindi comincia con... adesso faccio brutta figura perché non me la sono studiata bene, va bene? A parte gli scherzi, comunque sentite che c'è una seconda melodia meno caratterizzata che accompagna la prima melodia, il controsoggetto. Sostanzialmente non c'è da sapere altro, se non che, dopo aver sentito, in questo caso, le tre voci che entrano, cosa fa il compositore? Continua col soggetto? No. Si mette a giocare con il contrappunto e a sviluppare delle idee, che a volte sono le idee del soggetto, del controsoggetto, altre volte sono nuove idee. Questi episodi in cui il contrappunto viene combinato liberamente si chiamano divertimenti. Dal latino divertere, che come sapete vuol dire andare in un'altra direzione. Quindi il compositore a un certo punto abbandona il soggetto e combina liberamente il contrappunto, è la parte più libera della fuga. Ogni tanto però sentirete ricomparire il soggetto e le altre voci che entrano. D'accordo? Allora, in questo stadio diciamo semplicemente che una fuga è fatta di episodi in cui sentite il soggetto e la risposta, con il controsoggetto che accompagna, e degli episodi invece più liberi, meno vincolanti nel rapporto fra i motivi. Vi capiterà di vedere anche che ci sono dei momenti in cui sentite il soggetto, entra la risposta, ma la risposta entra prima che finisca il soggetto. Qui prima finisce il soggetto, poi entra la risposta. Ci sono degli episodi in cui questa cosa qui entra prima che finisca la parte di sotto. Si chiamano stretti, ma ci torniamo tra poco. Ora vedrete la partitura, il Santuomo che ha messo questa cosa su YouTube ha colorato l'ingresso delle diverse voci del soggetto, così potrete facilmente seguire questo gioco. In realtà, ripeto, sembra complicatissimo, suggerisco di stare attenti esclusivamente a questo. L'alternanza di soggetto e risposta, col controsoggetto che risponde, e le parti libere, i cosiddetti divertimenti. Alziamo un po' il volume, grazie. No, no, non l'ha colorato, sono io che vi faccio da guida allora. Divertimento. Thank you. soggetto. Contro soggetto. Soggetto. Divertimento. Soggetto. Soggetto. Contro soggetto. Divertimento. Tutto più fluido. Soggetto. Soggetto. Lo so, sembra complicato, e un po' lo è, volutamente, ma diciamo che l'esercizio d'ascolto è che l'orecchio passa da momenti di completa libertà del flusso musicale, che sono i divertimenti, a momenti in cui deve andare a pescare il soggetto che compare e il controsoggetto che lo sostiene. Questo è il piacere di sentire, di seguire una fuga, perché c'è questo continuo gioco tra delle parti più libere e più sciolte e delle parti in cui emergono e dialogano fra di loro le melodie del soggetto. Gli stretti. Lo stretto è quando appunto il soggetto si sovrappone, cioè voi suonate il soggetto e questo soggetto prima che finisca c'è subito la risposta. Ci sono addirittura delle fughe che sono fatte esclusivamente di stretti. Per esempio la prima fuga dal clavicembalo ben temperato. Non c'è un solo momento, a tranne l'inizio, in cui, dopo l'esposizione, il soggetto viene fatto sentire per bene in tutto il suo respiro. Ogni volta che entra c'è subito un'altra voce che lo fa risentire, prima ancora che la prima voce concluda. Serve a dare un senso di accavallamento, di affastellamento di idee, di tensione, di spessore anche delle idee. Qui l'esempio è colorato e lo vedrete facilmente. È fatto con un MIDI, qui non è un vero pianista. Questo è il soggetto. La risposta. Sotto il controsoggetto. Terza voce. Quarta voce. Guardate lo stretto ora. Brevissimo. Ora attenzione allo stretto. Giù. Su. Occhio, ce n'è un altro. E poi c'è questo. Niente. Ah, scusate, ho sbagliato. Sbagliato tasto, chiedo scusa. Ok. Ora, come fa John Lewis a scrivere una fuga jazz? Scrivere una fuga jazz è un problema enorme. Enorme. Perché? Allora, innanzitutto, prima di John Lewis, altri ci hanno provato, spesso con risultati eccellenti. Duke Ellington, per esempio. Nel 1946 scrisse all'interno di una suite un pezzo che si chiama Fuga Ditti, che è bellissimo, una fuga molto breve. Ma perché funziona? Perché è tutta scritta. Il problema della fuga è che siccome devo far incastrare le voci e in più devo alternare delle parti obbligate, quelle in cui ricompare il soggetto, e delle parti libere, e devo incastrare le voci e devo sapere chi entra, quando e come, devo scrivere tutto. John Lewis si pone invece un altro problema. Primo, per scrivere una fuga jazz, come deve essere il carattere del soggetto, la melodia di base? Che tipo di ritmo e di fraseggio deve avere? Due, il problema più grosso, come faccio a inserire l'improvvisazione in un genere e in una forma musicale che sembra essere proprio all'opposto dell'improvvisazione? Perché se una cosa, anche chi di voi ha avuto più difficoltà, una cosa è chiara, è che qui è tutto un gioco di incastri meticoloso. Se uno si mette a improvvisare, viene fuori il caos. Allora, Lewis ha affrontato questo problema e genialmente ha trovato la soluzione a come scrivere una fuga jazz che sia veramente jazz, dove ci sia dentro l'improvvisazione e il soggetto abbia un carattere jazzistico. Allora, il soggetto di Concord è un soggetto che ha un tipo di fraseggio squisitamente bebop. È questo. È talmente bop, ricorderete da una lezione che abbiamo dedicato giusto lo scorso anno al bebop, che c'è perfino l'intervallo cosiddetto di quinta diminuita, che viene associato di solito proprio alle sillabe bebop, bebop, bebop. Quindi lui scrive una melodia che è bop, ma è fatta botta e risposta, come un pezzo classico. Dopodiché prende questa idea e nella idea di avere un soggetto, non un tema, cioè qualcosa che si allunga e di cui poi non percepisci più i confini, prende questa testa del tema e la allunga. Questa successione di accordi è molto barocca. Cioè, fa così. Scusatemi. Si chiama successione del circolo delle quinte ed è tipicamente barocca. Quindi lui prende questa idea jazz e la adagia su una successione armonica barocca. In più, adotta questo fraseggio swingante, che proprio si fraseggia come una cosa jazz. Riesce miracolosamente a mettere insieme le due cose. A quel punto gli manca solo da scrivere il controsoggetto, cioè la parte che accompagna, e poi a lui ha tre voci nel mondo del jazz quartet: la mano destra del pianoforte, il vibrafono, il contrabbasso. Sono tre linee melodiche, come, esattamente come la fuga, la prima fuga che abbiamo ascoltato di Bach, e ha tre voci. Il batterista, come vedremo, farà dei veri e propri colori ritmici che accompagnano. Ora vi voglio portare passo passo dentro l'esposizione, quindi l'ascolteremo tre volte da tre punti di vista differenti. La prima volta cominciamo ad ascoltarla per sentire il soggetto. Il soggetto entra nell'ordine di, lo vedrete, contrabbasso, pianoforte, vibrafono e poi di nuovo contrabbasso, quattro volte, anche se le voci sono tre. Ora la risposta. Sentite il pianoforte. Vibrafono. Ora la rifà il contrabbasso, giù! Ok? Quei numerini che vedete a fianco, li potete anche giocare in varie combinazioni, sono il numero di battute delle frasi. Perché l'ho messa dentro? Non è che per voi sia così importante in questa fase, però vi fa capire una cosa, che Lewis allunga e accorcia il soggetto. Una volta dura 7 battute, una volta dura 8, una volta dura 9. In questo modo ottiene quell'effetto di flusso che c'è nella musica barocca e che nell'improvvisazione o nella scrittura jazz è un po' più raro, perché il jazz tende ad essere molto più quadrato. 2, 4, 8, 6, 16 battute, eccetera. Invece così, con questa frase che si allunga e si accorcia, voi non ve ne rendete conto, ma se poi andate a contare, magari dopo lo facciamo, se andate a contare vi rendete conto che è una frase di lunghezza irregolare e continuamente mobile. È un tocco geniale, perché al nostro orecchio dà quel senso di libertà del fraseggio barocco. Ora invece ascoltiamo il controsoggetto. Adesso che avete sentito il soggetto, sentite cosa fanno gli altri strumenti sotto il soggetto. Quindi voi sentirete prima il contrabbasso, poi entra il pianoforte, sentite cosa fa il pianoforte, il contrabbasso sotto il pianoforte. Poi quando entra il vibrafono, sentite cosa fa il pianoforte sotto il vibrafono. Ok? Quindi lasciate perdere il soggetto, sentiamo l'accompagnamento. E qui non c'è niente perché è la prima voce. Ora ascoltate il basso. Ora ascoltate il piano, fa la stessa cosa del basso. Ora ascoltate il vibrafono. Facciamo un ascolto globale finale, proviamo a sentire tutto. Naturalmente non c'è una sola nota improvvisata in questa parte dell'esposizione, è tutto scritto, ma la cosa interessante che non abbiamo ancora visto e che vediamo, su cui diciamo non è importantissimo ma è interessante, è che John Lewis scrive questo, ovviamente risposta e soggetto, soggetto e risposta in due tonalità diverse. Bach adotta dei rapporti semplici di tonalità, a distanza per esempio di quinta, Sol, Re. In una chiave contemporanea, John Lewis invece alterna le tonalità in modo dissonante, a distanza di semitono. Il primo soggetto è suonato in La bemolle, il secondo in La. È cromatico, è dissonante. E oscilla continuamente come un pendolo. Cioè, quando entra il contrabbasso è così, sentirete. Poi ve lo faccio sentire. Quando entra il pianoforte è così. Lo sento qui. E poi invece il vibrafono è. Alterna continuamente. Ascolto globale. Lo so che alcuni si sono già persi e chiederanno indietro il prezzo del biglietto, ma noi proviamo a risentire questa esposizione tutte insieme, provando a seguire rapidamente tutte le diverse voci. Questa è La bemolle. Faccio sentire prima le tonalità. La bemolle. Ok? Questa è l'esposizione. Ora viene il colpo di genio. Il colpo di genio è che Lewis vuole a tutti i costi mettere l'improvvisazione. E dove la mette? Nei divertimenti. Cioè, mentre in Bach i divertimenti sono il momento in cui il compositore scrive liberamente il contrappunto, senza fare riferimenti a soggetto, controsoggetto, con un gioco in cui vengono ricombinate le voci, in una fuga jazz John Lewis ha un'idea. Io i divertimenti li faccio diventare l'assolo. E l'assolo su cosa lo faccio? Su un normale giro armonico, come se fosse una canzone. Pensate che in Vendôme, che è un'altra fuga che scrive pochi anni dopo, i divertimenti sono basati sul giro armonico di una canzone preesistente, All the Things You Are. Qui invece lui scrive un giro armonico abbastanza anomalo che tocca tre tonalità, come vedremo. Il primo assolo lo fa John Lewis al pianoforte, ma siccome il pezzo deve essere sempre contrappuntistico, c'è il vibrafono che fa delle note singole di accompagnamento, mentre basso e batteria swingano regolarmente. La struttura è quella di una canzone che c'è sotto. Ricomincia. Questa struttura. Va sul re. Questa è la B. E poi c'è una parte scritta. Facile, questo è più facile da capire. Il divertimento è il momento dell'assolo su una struttura armonica. A questo punto segue la seconda esposizione. Come in Bach, finito il divertimento, ricompare il tema, il soggetto. Solo che stavolta, come in Bach, Lewis non rifà tutta l'esposizione di tutte e tre le voci, addirittura quattro volte all'inizio, no? Contrabbasso, pianoforte, vibrafono, contrabbasso. Ma fa entrare solamente le voci solo due volte. Col vibrafono e con il contrabbasso, anzi, prima il pianoforte stesso. Sono quindi solo due ingressi. Ascoltate prima il pianoforte e poi il vibrafono. Concentriamoci solo sugli strumenti che fanno il tema. Vibrafono. In questo gioco Lewis semplifica molto il rapporto contrappuntistico fra le parti. Per esempio non c'è il controsoggetto all'inizio. Sentirete il pianoforte che fa il tema e il contrabbasso che fa una parte scritta, ma come dire, che non ha a che fare con i temi che abbiamo sentito prima, molto libera. E lo stesso vale per le altre voci. L'ho chiamato semplicemente contrappunto. Questo per dire che Lewis si prende la libertà di ricombinare le voci in modo sempre diverso, senza, come farebbe Bach, appunto, senza per forza obbedire a tutte le regole dell'esposizione. Sentite il basso. Libero. Ora. Il pianoforte fa il controsoggetto. Le tonalità che vengono toccate sono, lì erano la bemolle e la maggiore, qui sono mi bemolle e mi maggiore. E noi lo riascoltiamo sentendo questa oscillazione delle tonalità e sentite che quando entra il vibrafono il pianoforte fa il controsoggetto. Lo so che molti di voi hanno sfidato il blocco del traffico per complicarsi la vita stamattina, ma il bello del contrappunto è questo, è che richiede una focalizzazione e la capacità di ascoltare più cose contemporaneamente. Poi il cervello ce la fa fino a un certo punto, quindi freneticamente passa da una voce all'altra, da una linea all'altra, nel tentativo di tenere insieme tutta questa complessità. In più qua il tempo è anche veloce, il contrabbasso non è molto nitido, quindi non è facile da sentire, me ne rendo conto, però l'interesse sta proprio nel fatto che qui vediamo convergere due linguaggi completamente diversi. Fatto la seconda esposizione, c'è un nuovo divertimento, ed è un nuovo assolo. Questa volta è l'assolo del contrabbasso. John Lewis utilizza una struttura diversa per l'assolo di contrabbasso, molto irregolare come vedrete, proprio per dare questo effetto di flusso. Che cosa vuol dire? Che il bassista davanti degli accordi suona quello che gli pare, su questi accordi, mentre in realtà vibrafono e pianoforte fanno dei piccoli riff scritti, come se fossero una piccola big band. Pava, tidu, tadu, tada, fanno queste frasi qui. Sono frasi bebop che vengono usate nell'accompagnamento di un divertimento fugato alla Bach. Detto così si capisce l'audacia di Lewis, ma musicalmente è molto naturale. Solo di basso. La stessa cosa più lunga. Anche questo è abbastanza semplice da seguire. Ora arriva una terza esposizione, che è un altro tocco di genio di Lewis. C'è una cosa che non abbiamo detto delle fughe di Bach. Il soggetto che si sente nelle fughe di Bach, per esempio quella in Do maggiore, questo soggetto, spesso Bach o compositori come lui dell'epoca, lo fanno sentire anche in tonalità minore, cioè gli cambiano il carattere, gli fanno sentire in minore. È un modo per modificare l'espressività del soggetto. Lewis addirittura fa anche questa cosa, prende il soggetto tarari darori e lo trasforma in tonalità minore. È quello che succede nella terza esposizione. Stessa cosa che avete sentito prima, ma appunto in tonalità minore, con tanto di controsoggetto. Andiamo sempre un pezzetto alla volta. Il soggetto in minore questa volta lo fa in modo molto espressivo il vibrafono. Ora il pianoforte. Lo riascoltiamo sentendo come dietro queste melodie gli altri strumenti facciano un contrappunto, sempre scritto. Ricordatevi, le esposizioni non hanno improvvisazione. Stiamo alternando improvvisazione e composizione, improvvisazione e composizione. Quindi sentite sotto il vibrafono cosa fa il pianoforte e sentite sotto il pianoforte cosa fa il vibrafono, eccetera, eccetera. Ci sono dei contrappunti. E le tonalità a cui toccate sono in minore, sempre in oscillazione di semitono. È una cosa che si sente meno facilmente, ma sappiate che sotto c'è questa continua oscillazione di tonalità. Ci avviamo verso la conclusione del pezzo, l'ultimo divertimento. L'ultimo divertimento è un assolo improvvisato del terzo solista che mancava, Milton Jackson al vibrafono. Ed è, siccome l'esposizione era in minore, anche il giro su cui improvvisa Milton Jackson è in tonalità minore. È praticamente lo stesso giro che suona John Lewis all'inizio, ma volto al minore, quindi ha un carattere più malinconico, più triste, più velato. Ed è un momento notevolissimo. Pianoforte contrappunta. Thank you. Ok, questo breve assolo con queste tonalità che scendono, tanto per farvi capire il terzo rigo. Cioè noi abbiamo una cosa così, lui improvvisa, poi... Terzo, la B, invece fa così. Oh, scusate. L'accompagnamento è questo, sono tutte oscillazioni minori. Ripeto, è la base armonica che non è facilmente identificabile, ma vi dà questo senso di movimento, di viaggio, di cammino, che tende a scendere, sempre questo movimento discendente. Arriviamo alla parte finale di Concorde. C'è un'altra cosa che non abbiamo detto nelle fughe di Bach, perché non si poteva dire tutto, diventava troppo complicato. Le fughe di Bach spesso si concludono con un pedale. Cos'è un pedale? Il termine viene dalla pratica organistica. Il pedale è una nota tenuta al basso, mentre sopra succedono delle cose, al basso succedono delle cose e, scusate, sopra succedono delle cose e il basso rimane fermo. Ci sono varie funzioni del pedale. Una è quella che serve, come dire, a frenare il pezzo. Nelle fughe di Bach spesso sentite, come nella prima, il pezzo che rallenta è la nota più bassa che sta ferma. Come dire, siamo arrivati. Questo fa da freno a mano, il pezzo rallenta e il basso, l'accompagnamento, non si muove più. Rimane fermo, ancorato, finché pian piano tutte le voci si esauriscono e si fermano. Un'altra possibilità, che è quella che usa Lewis, è di usare il pedale prima della fine. Come dire, c'è il pedale, vuol dire ci fermiamo, ci fermiamo, ci fermiamo, facciamo il finale e chiudiamo. Lewis usa il pedale in questa funzione, cioè tiene una nota tenuta al basso, scrive, in modo da creare, caricare la tensione e arrivare al finale. Ok? Tra l'altro usa il pedale per far continuare l'assolo di Milton Jackson, che quindi improvvisa liberamente, un altro tocco di genio. Visto che il pedale armonicamente è fermo, vai, improvvisa per 11 battute, che è un numero totalmente irregolare. Come si conclude la fuga? Si conclude con uno stretto, come le fughe di Bach, esattamente come le fughe di Bach. In genere le fughe di Bach hanno lo stretto alla fine, ad eccezione di quella che abbiamo visto prima. Ma in genere ce l'hanno alla fine, sapete perché? Perché dà il senso di concitazione, dà il senso di arrivo. Una dopo l'altra le voci si sovrappongono e quindi hai la sensazione di un accumulo rapido delle cose che portano alla conclusione. Lewis fa questa cosa alla fine di Concorde. Vi ricordo come il tema. Si limitano a fare questo. Le sentirete entrare per 3 volte di seguito, una dopo l'altra, vibrafono, pianoforte e contrabbasso per 3 volte di seguito. Unisono! Volete risentirlo? Perché è un momento impressionante, però devo fare così per farlo sentire. Sentite? E poi tutti all'unisono. Ecco, questo finale è straordinario perché le due tonalità che oscillano sono Si bemolle e Mi e questa. Questa oscillazione tra le due tonalità è la stessa che c'è nel tema. È è la melodia del tema che diventa diventano gli accordi su cui si basa l'intero passaggio. Allora, per spiegarvelo meglio, ritorno alla diapositiva. Il pedale. E poi lo stretto. Tre volte. Bellissimo accordo finale con un piccolo tocco di piatto, di gong, di Connie Kay, è l'accordo di La bemolle, cioè... L'ultimo accordo è questo, Mi. E assume tutta un'altra luce, tutto un altro colore. Sapete perché? Perché... Nelle fughe di Bach il finale è molto importante, l'accordo finale è una specie di accordo rituale in cui si dice tutta questa confusione, tutto questo intreccio di voci termina in questo accordo, in questa sintesi verticale luminosa. Tant'è vero che le tonalità, spesso le fughe nelle tonalità minori, come la prima che abbiamo ascoltato, finiscono con un accordo in maggiore. La prima fuga era in minore, ma finisce così. Ok? Inizia così e finisce così. Questo cambiamento dal minore al maggiore serve a dare stabilità, sicurezza e anche un certo tipo di solennità alla conclusione. Dato che però Concord è in tonalità maggiore, per dare questo effetto di solennità, John Lewis accosta questi due accordi in modo moderno, come Bach non avrebbe mai potuto fare all'epoca, perché non era, diciamo, nel linguaggio dell'epoca. Questo è il penultimo. E questo salto improvviso, che sarebbe piaciuto a Schubert, ha un carattere appunto di solennità conclusiva. Da Si bemolle a Mi. Mi. Ora ho usato un linguaggio un po' più tecnico, ma spero che vi sia stato chiaro, come dire, la complessità dell'operazione di John Lewis nel costruire questo, come dire, questo percorso, questo materiale, che sembra totalmente estraneo al jazz, di cui invece Lewis ha trovato l'equivalente jazz, il tutto con grande equilibrio. Però prima di riascoltare il pezzo per intero e quindi avere uno sguardo d'assieme su questo viaggio che abbiamo intrapreso, ma abbiamo ancora alcune cose da dire, vorrei attirare la vostra attenzione sull'unico musicista che non ha fatto l'assolo, cioè Connie Kreisner, cioè Connie Kay. Connie Kay viene dal rhythm and blues, ma è un batterista dentro il mondo del jazz quartet molto molto particolare, perché come avrete sentito agisce più come un percussionista classico che come un batterista jazz. Addirittura nella sua batteria aveva il darbuka delle percussioni nordafricane, campanellini, triangolo, piccoli piatti, come vedete, sonagli. E questo elemento coloristico non è solo di timbro ed è totalmente nuovo, attenzione, nel jazz degli anni 50. È completamente inedita questa attenzione al colore percussivo. C'era solo un batterista prima di Connie Kay che aveva pensato alla batteria in termini percussivi ed era Sonny Greer nell'orchestra di Duke Ellington, che aveva un vero e proprio parterre di percussioni, come poi si troverà solamente negli anni 60 nei gruppi come l'Art Ensemble of Chicago o cose del genere. Connie Kay quindi è un percussionista classico perfettamente funzionale, se pensiamo che poi veniva dal rhythm and blues con i suoi groove aggressivi, è ancora più sorprendente la finezza con cui lavora in questo ruolo. È un percussionista classico che unisce due elementi, attenzione, il timbro, l'uso del triangolo, del campanellino, del gong, del piatto jazz, delle spazzole, della bacchetta, eccetera, e il ritmo. Perché si inventa delle figurazioni ritmiche, sincopate, che si incastrano perfettamente con quel soggetto tra bop e barocco che John Lewis aveva concepito per Concorde. Tanto per farvi fare mente locale, due pezzetti, l'inizio, sentite come suona questa specie di campanellino, sarà un triangolo sembra, che è uno strumento che non viene mai usato nel jazz, né prima né dopo con Nick Hay, come questo timbro, questo ritmo si incastra con la parte melodica, sentite. Ora, attenzione. Impressionante, vero? Come dà vitalità, swing e colore al tempo stesso al contrappunto. La stessa cosa succede alla fine nello stretto. Finale. Avete notato che nell'esposizione, tra l'altro, benché sia piena di swing, con Nick Hay non suona la batteria, cioè voi non sentite l'accompagnamento jazz tradizionale, è talmente, funziona talmente bene che non ce ne accorgiamo che lui sta lì solo con questo triangolo a fare questa figurazione ritmica. Ora, avvicinandosi alla conclusione, oggi ho fatto una lezione di jazz più breve perché venendo qui in auditorium i nostri fantastici tecnici, a cui farei un applauso, come sempre, grazie. Insomma, erano le 10, stamattina già parlavano di matriciana, sugo, insomma, parlavano di mangiare, dicevano siamo qui dalle 8, per noi è già l'ora di pranzo. Allora ho detto facciamo una lezione più breve così andiamo a pranzo prima. Però prima di concludere ci sono ancora due brevi passaggi. Il primo è che vorrei farvi riascoltare il brano per intero. Ora io ve lo faccio riascoltare però con uno schema che io ho tratto dal mio libro I segreti del jazz, che è il riassunto di tutto quello che ci siamo detti. Sembra molto complicato e in effetti lo è. Chi lo vuole seguire lo segue. No, beh, io vi prometto, se vi dico è complicato non sto a mentire. Chi lo vuole seguire lo segue, io vi aiuterò a seguirlo. Chi non lo vuole seguire vuole, come dire, riassumere mentalmente il flusso delle, diciamo, delle analisi che abbiamo fatto fin qui, lasci perdere completamente questo schema e si, come dire, segua ad orecchio. Chi vuole invece seguirlo ha, come dire, tutti gli elementi per seguirlo. Riascoltiamo Concorde, buon ascolto. Thank you. Non è stupendo? È un pezzo bellissimo. Farei un applauso a John Lewis e al Modern Jazz Quartet. Tra l'altro ha il segno dei capolavori nel fatto che è molto complesso, ma poi se lo ascoltate scorre, no? È naturale, fluisce. L'enorme complessità strutturale che c'è sotto è sciolta nella naturalezza della musica, come non percepite neanche per un attimo l'incredibile, come dire, rottura delle regole e la capacità che Lewis ha avuto di entrare in un territorio completamente nuovo, scrivere una fuga sulla quale è possibile improvvisare. Ora rimane un ultimo aspetto da analizzare, il titolo. Perché Concorde? Perché Place de la Concorde? Questa è una stampa della seconda metà dell'Ottocento che ci mostra com'era Place de la Concorde, non come oggi. E non è come l'ha vista John Lewis, cioè, come sapete, una piazza tra le più trafficate di Parigi, è uno degli snodi fondamentali del centro. Per chi non è mai stato a Parigi, Place de la Concorde, alla fine dei giardini della Tuileries, Place de la Concorde fu progettata intorno alla metà del Settecento, negli anni 30 del Settecento, ebbe un primo assetto negli anni 50 del Settecento, ci volle molto tempo perché ci fu un problema di espropri dei terreni, poi ci misero le mani vari architetti, alla fine il progetto esecutivo finale era un po' diverso da quello iniziale. Poi Place de la Concorde ha avuto una storia terribile, perché sapete che durante il terrore era il posto dove venivano ghigliottinati le vittime della rivoluzione, poi la ghigliottina fu spostata, poi fu rimessa lì e a Place de la Concorde è il posto dove è stato ucciso Robespierre. Quindi è una piazza che per tanto tempo grondava letteralmente sangue, si affollava il pubblico parigino per assistere a questi spettacoli macabri. L'assetto poi conclusivo di Place de la Concorde è arrivato intorno alla metà degli anni 80 dell'Ottocento, in cui questa piazza della Concordia appunto è diventata uno dei fulcri, uno dei centri anche spettacolari dal punto di vista scenografico e, ahimè, anche del traffico di Parigi. A quale Place de la Concorde pensa John Lewis quando dedica una fuga intitolandola Concorde? Beh, innanzitutto c'è ovviamente una esplicita volontà di mettere insieme due concetti europei, cioè una piazza simbolo della cultura europea, cioè di Parigi, e la fuga come una forma, un processo musicale caratteristici della cultura classica europea. Quindi lui non è che scrive un blues e lo chiama Concorde, chiaro, no? Poi c'è evidentemente questa idea della fuga associata anche alla piazza, cioè all'architettura, perché poco dopo lui scriverà Vendôme, che come sapete invece è una piccola piazza tra le più belle, forse la più bella di Parigi, raccolta con un piccolo giardino al centro, Place Vendôme, è un'altra fuga che scrive John Lewis. Quindi in secondo luogo c'è il tema dell'architettura, cioè come Place de la Concorde è una particolare architettura, così la fuga stessa è l'architettura per eccellenza della musica, e non solo della musica classica europea o del jazz, è proprio la conquista, anche il terreno ultimo su cui un compositore si esercita per architettare e costruire un edificio musicale complesso su delle regole piuttosto stringenti. Quindi c'è un elemento architettonico che viene scelto da John Lewis. C'è poi un terzo elemento che probabilmente è la Place de la Concorde che John Lewis ha visto nei suoi tanti viaggi in Europa, non solo nei tour. John Lewis era tra l'altro sposato con una moglie slovena, quindi frequentava l'Italia, l'Europa, la conosceva, è stato tantissimo in Italia. Tra le altre cose ha anche scritto un pezzo dedicato alla commedia dell'arte e a una delle più belle piazze di Roma, cioè Piazza di Spagna, nella suite The Comedy, così come ha dedicato una ballad meravigliosa, molto semplice e lineare, che si intitola Milano. Mi chiedo se questa semplicità e linearità non fosse un tratto ironico, diciamo, nella scelta del titolo. Però Milano, appunto, un pezzo molto, molto tranquillo. Quindi c'è, come vi dicevo, una, c'è il terzo elemento che volevo dire è la Place de la Concorde di oggi. In fondo, per raccontare il traffico che John Lewis avrà visto negli anni 50 a Parigi, una fuga poteva essere un buon modo, no, per, non lo so, sto andando un po', come dire, sto un po' interpretando il pezzo, però mi metto nei panni di John Lewis che arriva a Parigi e va a visitare Place de la Concorde e vede un gran casino sostanzialmente, e quindi questa idea dell'inseguimento di macchine, di traffico, di ingorghi eccetera, può avergli suggerito l'idea della fuga. Ma secondo me c'è un qualcosa di ultimo ancora più profondo. Ci dimentichiamo che quando John Lewis e il Modern Jazz Quartet, Milton Jackson, Percy Heath e Connie Kay hanno registrato questo pezzo, loro erano dei cittadini americani con dei diritti di serie B. John Lewis sarà anche andato a Parigi a visitare Place de la Concorde, avrà anche scritto una geniale fuga jazz, sarà stato anche uno dei più grandi menti musicali, diciamocelo, del XX secolo, è un pianista sopraffino. Ma quando andava in giro per gli Stati Uniti non poteva bere l'acqua da una fontana per bianchi, non poteva entrare in un albergo, lui doveva andare in un albergo per negri, se fosse salito su un autobus aveva un posto riservato per i negri e non per i bianchi in fondo all'autobus, non poteva prendere un treno, non poteva mandare i suoi figli in una scuola qualsiasi perché c'erano le scuole segregate per i bianchi e per i neri, e quando Concorde fu registrata era scattata appena da un anno la sentenza della Corte Suprema che aboliva la segregazione razziale nelle scuole, ma questa sentenza divenne esecutiva solamente e con grande fatica negli anni successivi. In altre parole, John Lewis, che era un genio, era un cittadino di serie Z, e lo stesso vale per Milton Jackson, per Percy Heath e Connie Kay. Era gente che rischiava la pelle tutti i giorni, perché se avesse viaggiato nel sud, e Lewis l'ha fatto con l'orchestra di Gillespie, se avesse lanciato uno sguardo sbagliato alla persona sbagliata, sarebbe morto impiccato ad un albero. Allora, John Lewis in realtà ci sta dicendo che Place de la Concorde, che fu costruita tra gli anni 30 e gli anni 50 del Settecento, è la piazza dell'illuminismo, è la piazza della ragione. È vero che è anche la piazza segnata dalle tragedie della storia, come il terrore, ma di fatto, con la sua architettura, anche nell'assetto ottocentesco, le fontane furono messe nell'Ottocento, la metà dell'Ottocento, nel suo assetto ottocentesco, nel suo essere alla base della prospettiva delle Tuileries, nell'avere il Louvre da quelle parti, la Place de la Concorde è il cuore, come dire, in un certo senso, dell'illuminismo francese. E l'illuminismo francese veicola dei valori che valgono tanto per gli europei quanto per gli afroamericani. Veicola dei valori di ragione, e la ragione è alla base della fuga. Tu non puoi scrivere una fuga d'istinto. La fuga è una forma che richiede calcolo, oltre che capacità musicale, perché se è solo calcolo diventa matematica e suona arida. Moltissime fughe suonano aride. Noi ci ricordiamo di quelle di Bach perché non suonano aride, come Concorde non suona arida. Allora questo è quello che ci sta dicendo John Lewis e il Modern Jazz Quartet ci stanno dicendo con Concorde, che questa fusione della struttura europea, dell'improvvisazione jazz, è il risultato di un afroamericano, cioè di un cittadino che dovrebbe essere di serie B, che sta provando a mescolare e a riunire valori diversi in nome dell'illuminismo. Quindi sta facendo un'affermazione universale di diritti umani ed artistici. Grazie.